Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Studenti da tutta Europa oggi in Italia. Milano ospita il meeting annuale del network Erasmus. Il presidente dell'associazione in Italia, Carlo Bitetto. Prevediamo l'arrivo di un numero di delegati da tutte le università europee, da circa 450 università europee, con un numero compreso tra le 600 e le 800 unità. Si comincia questo pomeriggio, vi sarà alle 15 l'apertura all'Arena Civica di Milano con queste delegazioni provenienti da tutta Europa. Ieri tra l'altro il Consiglio dei rappresentanti dell'associazione ha approvato l'ingresso della Russia dentro appunto la rete Erasmus, e questo è un segnale molto importante che in questo momento di tensione dal punto di vista politico gli studenti fanno vedere che ancora una volta possono fare qualcosa di più e superare quelle che sono magari le barriere che si ritrovano in altri ambiti. Andate un po' contro tendenza rispetto al resto delle istituzioni europee. Sì, andiamo molto contro tendenza, e quello che vogliamo far capire è che è ora che le istituzioni inizino ad ascoltare gli studenti. Si è parlato tanto di generazione Erasmus, anche Matteo Renzi ha parlato di generazione Erasmus durante il suo discorso di insediamento alla Camera. Quella che sta organizzando questo grande evento a Milano è la generazione Erasmus italiana. Avete promesso anche un flash mob in questi giorni, che state organizzando? Sì, dopo la cerimonia in Arena Civica partirà una parata di tutte le nazioni, di tutte le 36 nazioni rappresentate, che dall'Arena Civica raggiungerà il Duomo di Milano. Sarà circa un'ora di parata, tutti i delegati saranno coloratissimi con bandiere e altri indumenti dei loro paesi. E arriveremo al Duomo, dove ci sarà, con anche la presenza appunto del ministro Gennini e del sindaco, l'abbraccio di tutta l'Europa. Tutti i delegati si terranno per mano, tutta l'Europa abbraccerà il Duomo di Milano, proprio per far capire che davvero tramite l'esperienza Erasmus si riescono ad abbattere quelle frontiere che purtroppo ancora nel 2014 ritroviamo in tante altre occasioni. Un voto a favore della neutralità della rete. Il Parlamento europeo, approvando in prima lettura con 534 sì, 25 no e 58 astensioni, il pacchetto telecomunicazioni, ha gettato di fatto questa mattina la base legale per assicurare un internet libero e senza discriminazioni per consumatori ed imprese. Il testo assicura limiti chiari al blocco o al rallentamento del traffico internet e propone norme che assicurano una maggiore concorrenza, limitando il potere dei provider di promuovere alcuni servizi a discapito di altri. Proposta elaborata dalla Commissione Industria, di cui Patrizia Toia è la vicepresidente. L'intervista di Laura Bettini. Vuol dire per esempio che certi operatori non possono offrire sotto la voce servizi specializzati a pagamento, servizi che sono già liberi su internet. Lo so, potrei fare un esempio: se ci sono su YouTube dei filmati eccetera che circolano liberamente, ecco, non è che un operatore può creare un servizio di informazione a pagamento riprendendo ciò che c'è già sulla rete libero. Diciamo che abbiamo lavorato, soprattutto il mio gruppo, con questi emendamenti proprio per allargare le opportunità dal punto di vista del consumatore e del fruitore di internet libero. Però nell'insieme è anche un aiuto al mondo delle imprese e delle telecomunicazioni per una crescita, per uno sviluppo maggiore. Perché le imprese non saltano di gioia da un certo punto di vista, perché dicono giustamente, dal loro punto di vista, abbiamo fatto grandi investimenti e se i nostri profitti, le nostre entrate vengono ridotte, i nostri investimenti, diciamo, sono remunerati. Però noi possiamo dire che questi investimenti nel rafforzamento delle reti eccetera possono portare allo sviluppo di altri servizi che oggi sono richiesti dalle telecomunicazioni. Intanto il fronte economico, nuovi segnali positivi a sorpresa dai consumatori dell'area euro. A febbraio le vendite realizzate dal commercio al dettaglio sono cresciute dello 0,4% rispetto al mese precedente, secondo i dati Eurostat, che ha anche ritoccato in meglio le cifre di gennaio, su cui ora indica un più 1%. In questo modo è stata più che compensata la flessione segnata a dicembre di meno 1,2%. I dati di oggi sono decisamente migliori di quanto attendessero gli analisti. Gli aumenti maggiori in Lussemburgo, Bulgaria e Romania. Cali invece però ancora continuano a Malta, Slovenia, Finlandia e Spagna. Italia il dato è stabile, con variazione nulla. E come sempre vi ricordo, l'Europa vi aspetta ancora oggi, questa sera, effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.